Radio 24 Reportage. Hackney, Londra a lezione di scuola, di Giorgia Scaturro. This is the London Overground service to Stratford. The next station is Hackney Central. This is Hackney Central. Benvenuti ad Hackney, il Far East di Londra, dove è in corso una eclatante trasformazione urbanistica e sociale. L'anatrocolo povero e pericoloso della capitale britannica sta diventando una delle aree più interessanti ed ambite in cui vivere. E la lezione di rinascita metropolitana viene proprio dalla scuola. Nuovi istituti scolastici stanno infatti portando rigore, ricchezza e nuovi residenti in questa zona. L'edificio di colore viola acceso, verde e rosso dà certamente nell'occhio, anche solo per il fatto che a progettarlo è stato Richard Rogers. Nel cuore di una delle aree più malfamate di Londra, Hackney Downs, è risorta la Mosman Academy, che in 5 anni è diventata una delle scuole superiori migliori di tutto il Regno Unito. Mosman the best! I think Mosman the best, because you study a lot. It's the best school in the UK, yeah. All classified. Education is good. Everything's nice, yeah. Siamo all'interno dei cancelli della Mosman Academy per capire come questa sia diventato il modello per le altre scuole del Regno Unito, direttamente dal suo preside, Sir Michael Wishaw. The academy is in Hackney, which is a very poor, disadvantaged borough. L'accademia è ad Hackney, che è un comune molto povero e degradato. L'istituto è sorto sul sito di una delle peggiori scuole, divenuta famosa negli anni 80 e 90 come simbolo di tutto ciò che può andare storto in una scuola cittadina. Tanto è vero che fu poi chiusa nel 1995, in quanto peggiore scuola britannica. La nostra missione è stata quella di trasformare un fallimento in un successo. E dopo 5 anni siamo ai primi posti tra l'1% delle migliori scuole della nazione per i risultati dei GCSE, gli esami scolastici che si danno a 16 anni. Riceviamo 1.500 domande ogni anno per 180 posti. Siamo molto popolari e siamo qui per portare un cambiamento e lo stiamo facendo perché stiamo diventando un buon esempio per le altre scuole. We're setting a good example for other schools. Ma qual è il segreto del successo di questa scuola superiore fondata nel 2004 che da un'ultima ispezione è stata definita eccezionale? First of all, a new building. This building cost in the region of 30. Per prima cosa abbiamo costruito un nuovo edificio, costato circa 30 milioni di sterline, ideato sui bisogni degli studenti. La seconda cosa è che come Academy siamo indipendenti dalle amministrazioni pubbliche e finanziati da privati. Un ricco uomo d'affari ci ha donato ad esempio 2 milioni di sterline ed è diventato sponsor e capo del consiglio di amministrazione della scuola, che è interamente indipendente dalle autorità pubbliche e quindi può concentrarsi sui bisogni della scuola, ma anche spingerla a migliorarsi. Come terza cosa, la scuola ha l'autonomia di fare cose che le altre scuole non possono fare, come ad esempio allungare la giornata scolastica, stabilire nuovi salari per insegnanti e personale. Quello che abbiamo fatto è introdurre maggiore strutture. Siamo molto rigidi sulle divise e chi si comporta male deve restare a scuola fino alle 6, venire a scuola il sabato o durante le vacanze. I genitori all'inizio avevano obiezioni, ma adesso sono d'accordo perché vedono ciò che la scuola fa per i propri figli. Le classi variano dai 10 ai 30 studenti, che qui hanno dagli 11 ai 18 anni. Enfasi sull'insegnamento dell'inglese e le altre materie fondamentali, ma anche sport, arte e teatro, con insegnanti dinamici ed entusiasti di età compresa appena tra i 20 e i 30 anni. We have a no excuse culture here. Abbiamo la cultura del niente scuse. Siamo in un quartiere popolare molto povero e pieno di gang, ma la povertà non è una scusa per miseri risultati scolastici dei nostri studenti, dice il preside, che definisce la sua scuola un surrogato della famiglia, dove i ragazzi restano fino alle 7 di sera, hanno cena e colazione e vengono anche il sabato. Il tutto con un budget annuo di 11 milioni di sterline, circa 12 milioni di euro, per 1.200 studenti che il prossimo anno saranno 1.300. Sono molti i filantropi che vogliono finanziare le scuole indipendenti, sostiene Sir Wilshaw, che per il 2011 annuncia una rivoluzione nel sistema dell'istruzione britannica. Il governo chiederà alla Mosbourne Academy di sponsorizzare altre scuole che non vanno altrettanto bene. Questo sta già accadendo e nel futuro si avrà un modello in cui il miglioramento delle scuole diventerà responsabilità di altre scuole che vanno bene e di chi le gestisce. Mentre alle autorità locali e comunali sarà tolta questa funzione. Ci sarà un marchio Mossburn e questo sarà esteso ad altre scuole. Il fenomeno della Mossburn Community Academy è esploso in un boom abitativo, con genitori che per accedervi vogliono trasferirsi ad Hackney da tutti gli altri comuni di Londra, come ci conferma Shafiq Ulla dell'agenzia immobiliare Winkworth. 25-30% demand has gone up near the school. La domanda di abitazioni è salita del 25%. Vicino alla scuola si parte dalle 450 o 500 mila sterline per una casa vittoriana di tre stanze. La scuola ha fatto gonfiare i prezzi del 15 o 20%, ci dice Shafiq. Trasporti, ospedali e scuole sono tre fattori chiave che mantengono alto il valore di una proprietà, spiega l'agente immobiliare. Prima avevamo pessimi istituti scolastici e nessuno voleva vivere qui. Ora, con la Mossburn e la City Academy, tutti vogliono trasferirsi ad Hackney. Sul suo tavolo c'è una grande confusione di carte. Questi pagano in contanti. Oggi non ho solo un appuntamento, ne ho altri 15 o 16 e tutti vogliono comprare in quest'area. Nel 2006 Channel 4 ha classificato Hackney come il peggior posto dove vivere di tutto il Regno Unito. Da allora le cose stanno cambiando. La criminalità è scesa ai livelli più bassi degli ultimi 10 anni e ad Hackney sono sorti locali trendy e interessanti centri culturali. Ora, le Olimpiadi del 2012 promettono altre importanti trasformazioni. Siamo davanti a Town Hall, l'edificio del comune, in stile Ritorno al futuro, con l'orologio stampato sulla facciata, e qui incontriamo Guy Nicholson, membro della Commissione per i Giochi Olimpici e Paralimpici e la rigenerazione dell'area. A lot of things have been happening, socially, culturally. Stanno cambiando un sacco di cose, dal punto di vista sociale, culturale, economico e ambientale. In questa comunità stiamo annunciando livelli di investimenti come non si erano mai visti di sicuro negli ultimi 100 anni. Sono investimenti che arrivano sia dal settore privato che da quello pubblico. Tanto per darvi un'idea, ci sono già oltre 2 miliardi di sterline di investimenti per finanziare i centri cittadini di Dalston e Hackney Central. E questi sono solo fondi pubblici. Tra 2 mesi sarà aperta una nuova ferrovia urbana e Dalston sarà collegata alla rete della metropolitana di Londra. Gli investimenti copriranno poi ferrovie, strade, parchi. Ci sarà una nuova piazza, grande come un campo da calcio. Ci sarà una nuova stazione della metropolitana, scuole. La Mossburn Academy è solo uno dei 5 istituti che si stanno sviluppando per portare fantastiche opportunità attraverso l'istruzione. Ma con questo sviluppo il rischio, riconosce Nicholson, è la gentrificazione, ovvero le aree rigenerate non più accessibili ai residenti meno abbienti. Già agenti immobiliari della zona ci hanno rivelato che qui i prezzi per un bilocale dal 2000 ad oggi sono saliti dalle 90.000 alle 250.000 sterline, l'incremento maggiore di ogni altra area di Londra. Non abbiamo il potere di controllare il libero mercato, ma costruiremo 440 case popolari più economiche e altre 500 riservate alle compravendite immobiliari, amalgamando giovani, famiglie e anziani, spiega Nicholson, in modo da far ricadere gli investimenti sull'economia sociale e finanziaria del quartiere. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London. Da 11 anni Londra si sta preparando alle Olimpiadi del 2012, che si terranno nell'est povero tra Stratford e Hackney, dove i residenti al momento hanno aspettative di 15 anni di vita in meno rispetto a quelli dell'ovest. Ma oltre 9 miliardi di sterline di investimenti pubblici stanno sagomando il futuro dell'intera metropoli. Stiamo costruendo un nuovo distretto metropolitano nella valle del fiume Lee, la cosiddetta Lower Lee Valley, dove sorge il Parco Olimpico. Ma il Parco Olimpico copre solo un terzo di questa valle. Nei prossimi 30 anni stiamo pensando di portarvi 45.000 nuove case e 50.000 nuovi posti di lavoro. Il nuovo distretto metropolitano ha il suo catalizzatore e questo sono i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2012, un progetto che è stato gestito dal settore pubblico e sta andando bene con i tempi. È nel budget e sarà veramente grande. E allora gli chiediamo qualche anticipazione. Una nuova generazione di artisti e designer faranno da cornice ai giochi e l'arte sarà il modo attraverso il quale tutti potranno partecipare, sia coloro che vivono qui, sia quanti vorranno venire nell'est di Londra dall'Italia. It is welcoming you all into the East End of London. Siete tutti invitati non solo a vedere un atleta correre i 100 metri, ma a godervi l'arte, la cultura, il cibo, gli spazi e le persone. Food, spaces, the people. Come and enjoy it. It's great. Venite e divertitevi, invita Nicholson, e state nelle case di persone, così alla fine dell'estate avremo costruito delle amicizie tra Italia ed Inghilterra. Italy's talking to England. That'd be nice. That'd be good, you know?